Prima che gli imbalsamatori prelevassero il corpo di Filippo, chiesi di restare sola con lui e mi sedetti a suo fianco. Gli presi le mani e le carezzai, alzando un dito per volta. Gli pulii le unghie, che conservavano ancora la terra del suo ultimo gioco a palla. Gli accarezzai la fronte e gli sistemai i capelli. La docilità del suo corpo era un'esperienza nuova. Mi chinai a cercare di aprirgli le palpebre per affacciarmi ancora una volta ai suoi occhi. Per un istante vidi apparire la morte nella totale assenza di luce, l'occhio fisso, con la pupilla dilatata, priva di luce, come una porta chiusa. Allontanai la mano, spaventata. Filippo, sussurrai, Filippo, mi senti? Non rispose. All'improvviso, con una chiarezza che mi tolse il respiro, ebbi coscienza che Filippo non mi avrebbe risposto mai più. Fino ad allora non mi ero resa conto che dal primo momento in cui lo avevo visto non avevo più immaginato la mia vita senza di lui e fui presa dal panico quando riuscii a vedermi sola mentre vegliavo il suo cadavere. Cadavere? Mormorai. Che parola terribile. Il suono era carico di rigidezza, di freddo, di putridume. Questo e nient'altro era ora mio marito, il padre dei miei figli. In soli 4 mesi in Spagna era passato dal trono alla bara. Piansi, pensando al volto delle mie creature quando avessero ricevuto la notizia, ma le lacrime erano come acquazzoni passeggeri, come pene che non riuscivano a concentrarsi. Potevo a malapena piangere. Mi costava fatica pensare. Le idee comparivano nella mia mente, ma scomparivano come sassi attratti dal vuoto. Pensai che stando accanto al cadavere mi sarei convinta della realtà dei fatti, ma Philibert de Veyre, che era ambasciatore di Filippo in Spagna, e l'arcivescovo Cisneros vennero poco dopo e mi obbligarono a separarmi da lui. Lo lasciai con loro. Si organizzò la veglia funebre alla maniera borgognona. Filippo fu adagiato su un palco nella casa del Cordon, vestito dei suoi abiti migliori e circondato da magnifici arazzi. Il giorno dopo i dottori imbalsamarono il corpo e il terzo giorno fu portato in processione dalla casa del conestabile fino alla certosa di Miraflores. Io partecipai ai funerali, solo i palpiti di vita della gravidanza mi impedivano di sentirmi morta come Filippo. Quando infine mi chiusi sola nella mia stanza, fui presa da uno stato di totale lucidità in cui meditai freddamente sulle cose da fare. Mia madre, morta a Medina del Campo, era stata trasportata a Granada. A Filippo, che aveva ricevuto l'investitura di re, toccava giacere accanto a lei. Lui stesso aveva dato questa disposizione nel testamento e me lo aveva ripetuto dal letto di morte. La sua richiesta, nata dall'orgoglio, mi avrebbe dato l'opportunità di andare in Andalusia, circondarmi dei miei sostenitori e, resa in questo modo più forte, assumere le funzioni di regina. Pensai che in quelle circostanze andare a Granada mi avrebbe concesso una pausa per rinnovare le mie alleanze, liberarmi dei fiamminghi della mia corte e assicurare senza ombra di dubbio i diritti di successione di mio figlio Carlo. L'isolamento cui ero stata sottoposta, le prevaricazioni e le remore che la corte aveva nei miei riguardi furono un gravissimo impedimento al mio proposito di riprendere le redini del regno. Capii allora che mentre io ero intenta a vegliare l'agonia di Filippo, l'arcivescovo Francisco Jiménez de Cisneros si era fatto nominare reggente di Castiglia e aveva preteso che i grandi di Spagna giurassero che nessuno di loro avrebbe cercato di usare il mio potere o si sarebbe avvicinato a me per farsi dare una delega. Ma la reggenza di Cisneros non era gradita a tutti. Di lì a pochi giorni le fazioni si divisero tra coloro che propugnavano il ritorno di mio padre e coloro che pensavano che fino alla maggiore età di mio figlio Carlo dovesse governare mio suocero, l'imperatore Massimiliano. Nessuno di quei gentiluomini, nemmeno il mio buon amico, l'ammiraglio di Castiglia, Don Fadrique Enriquez, si degnò di prendere in considerazione la mia capacità di gestire il potere. Avranno pensato che per loro era più importante ottenere il favore di Ferdinando o di Massimiliano che quello di una donna vedova sola e in avanzato stato di gravidanza. Da parte mia, io non potevo contare nemmeno sul denaro necessario per comprare la lealtà incondizionata della servitù e dei soldati. Gli unici disposti a difendermi erano i nobili andalusi che si trovavano a molti giorni di cammino. Forse il popolo, che mi riconosceva come regina, si sarebbe opposto al fatto che mi mettessero da parte, ma mentre mi occupavo dei riti funebri, l'arcivescovo Cisneros fece proclamare vari editti minacciando pene severe per coloro che si ribellavano. In questa maniera soffocava qualsiasi tentativo di sommossa popolare a mio favore. Morto Filippo, riorganizzai la corte con dame che consideravo leali, ma che a poco si rivelarono fedeli a mio padre, la cui influenza sulla corte era tale che lo stesso Cisneros decise di arrendersi all'evidenza e di chiedergli di ritornare dall'Italia. Nonostante le sue insistenze, mi rifiutai di sottoscrivere questa richiesta, che avrebbe potuto essere considerata una mia rinuncia al diritto a regnare. Quando Ferdinando, in viaggio per Napoli, ricevette la lettera di Cisneros, rispose riconoscendo la mia autorità e i miei diritti alla successione, affermando che la reggenza di Cisneros non aveva ragione di essere. Io, però, isolata come ero, non avevo altra soluzione per esautorare il prelato che quella di rifiutarmi di firmare i documenti che mi presentava. In questa maniera il paese andò alla deriva, mentre la peste si accaniva contro i miei poveri sudditi. I nobili, uno più ambizioso dell'altro, portavano acqua al loro mulino utilizzando i loro eserciti e privilegi per seminare il caos e per risolvere vecchie questioni con il proposito di acquisire influenze da mettere a frutto quando la situazione si fosse stabilizzata. Nella solitudine delle mie notti cercavo di riflettere sui miei doveri, ma non riuscivo a superare l'apatia. La mia unica compagnia era il bambino che avevo in grembo, che desideravo fosse un maschio e che pensavo di chiamare Filippo. Lo immaginavo vigoroso come lui, pieno del suo spirito e custode, in qualche modo misterioso, della nuova vita di suo padre, il cui amore questa volta non mi avrebbe fatto soffrire. Due volte in quel periodo visitai la certosa di Miraflores in cui riposava il feretro di mio marito. Due volte lo feci aprire per assicurarmi che il suo corpo fosse ancora lì. Sapevo che i fiamminghi erano partiti, portandosi via il suo cuore in un'urna d'oro per seppellirlo accanto ai suoi antenati, ma io temetti che si fossero impadroniti del cadavere, dato che non avevano avuto nessun ritegno a prendersi tutto ciò che Filippo aveva portato con sé in Spagna. Si erano spartiti arazzi, mobili, armature, gioielli, cavalli, pitture, tutto questo e altro ancora, come risarcimento dei servizi che io non avevo modo di pagare. Non lo impedii, perché in quel momento non mi importava di niente, ma volevo essere sicura che non mi avessero spogliato anche delle sue ossa. La seconda volta che feci aprire il feretro fu prima di andare a Torquemada il 20 dicembre. Lì pensavo di attendere il giorno del parto, lontana dagli intrighi e dalle pressioni dei nobili. I religiosi si erano opposti con tanta foga a consegnarmi il catafalco di Filippo che sospettai che il suo corpo non fosse più lì. Feci aprire la cassa di legno e poi quella di piombo e, come la volta precedente, verificai che fosse lì, immobile, ricoperto di bende e di calce. Gli ambasciatori e i prelati inorridirono vedendo che lo toccavo. Per me, che non mi fidavo più di nessuno, l'essenziale era constatare che fosse ancora lì e liberarmi dal tormento delle mie elucubrazioni. Quel giorno, dopo aver pregato davanti al feretro all'altare della certosa, presi alcune decisioni con cui pensavo di poter ricostituire l'ordine e l'autorità regale. In primo luogo, revocai tutti i favori concessi da Filippo alla nobiltà. Molte dispute, infatti, erano state originate dalla liberalità con cui lui aveva disposto dei beni dei sostenitori di mio padre per passarli ai suoi. Rimossi dal Consiglio Reale, i membri nominati da Gomez de Fuensalida e convocai i rappresentanti delle Cortes in udienza, durante la quale ordinai che le cose ritornassero allo stato in cui si trovavano quando regnava mia madre e che si governasse nella stessa maniera di quando lei era in vita. Loro mi proposero, facendosi portavoce dei desideri di Cisneros, di invitare Ferdinando a ritornare da Napoli per farsi carico degli affari di Stato. Non dissi né di no né di sì, parlai di mio padre con affetto, ma non firmai nessuna missiva. Riaffermai comunque il desiderio che si ponesse in atto ciò che io, come regina, avevo disposto. Che io assumessi autorità regale sembrò disorientarli, ma li lasciai nel loro smarrimento e diedi ordine al mio seguito di partire per Torquemada e di portare con noi il feretro di Filippo. Né io né i miei accompagnatori e nemmeno la gente che ci vide passare avremmo dimenticato le immagini di quella notte. Fu l'inizio di una serie infinita di racconti, di viaggio e di leggende, poiché a causa dei ritardi accumulati durante il giorno non partimmo che un'ora dopo il tramonto, nella nebbia che assomigliava a un mare spettrale che alzava la cresta delle onde sulla terraferma, per poterci orientare tra le nuvole biancastre che ci avvolgevano, ordinai di accendere una grande quantità di torce. Il carro che trasportava il feretro, tirato da quattro cavalli, avanzava nella nebbia coperto da drappi di colore nero e oro e preceduto da cantori fiamminghi. Lo seguivamo noi, la corte, i religiosi che intonavano messe funebri, doveva sembrare che la morte sfilasse nella notte adornata di veli funerei e drappi bianchi. Io camminai per un buon tratto, ricordo lo sguardo delle donne schierate ai bordi della strada, mi guardavano con la riverenza dovuta a un personaggio sacro, ma i loro occhi esprimevano indubbiamente comprensione. L'essere donne dava loro la capacità di riconoscere i pianti più nascosti del mio cuore e di trasmettermi silenziosamente il loro appoggio e la compassione per me, vedova e in avanzato stato di gravidanza. Le camminate di quei giorni mi restituirono un po' di pace. L'aperta campagna, i pini accanto ai ruscelli, la terra rossiccia degli uliveti, i greggi di pecore guidati dai pastorelli, il cielo azzurro dopo i giorni di intrighi e di reclusione nella casa della Vega, giovarono al mio animo più dell'incenso e dei responsori per i defunti. Avevo 27 anni e la vita fluiva copiosamente dentro di me. La musica dei miei cantori fiamminghi, la cosa più preziosa che conservavo della mia permanenza nelle Fiandre, mi dava sollievo nei momenti di riposo. In quei giorni lo spirito giovane e innamorato di Filippo ritornò accanto a me. Senza più la sua presenza mi era facile inventare la storia dell'ineffabile felicità che avevamo condiviso tra alti e bassi. Il dolore e la nostalgia cancellavano le tragedie. E davanti ai miei occhi scorrevano i ricordi piacevoli dell'uomo che avevo tanto amato e al cui amore ora potevo abbandonarmi senza paura di essere disillusa. Avrei voluto proseguire il viaggio dopo alcuni giorni di riposo a Torquemada, ma con la luna calante la creatura che tenevo in grembo annunciò il suo arrivo. In casa del procuratore, del quale ero ospite, si ruppero le acque. Ero talmente sfinita che pensai di non sopravvivere. Le donne che mi assistevano temettero probabilmente la stessa cosa perché mi sentivo circondata dall'angoscia. A volte ho pensato che Caterina sia venuta alla luce da sola, dato che di quel momento conservo solo il ricordo dell'urgenza della sua spinta per aprirsi il passo. La lasciai andare via, mi abbandonai all'azione delle mie viscere senza volontà, senza aggrapparmi alla vita e senza desiderare la morte. Docile verso il destino, il cui potere era più forte di me e della mia voglia di sfidarlo. Quando rimasi vuota e sentii piangere la mia creatura, chiusi gli occhi, contenta di essere ancora in vita. Appena vidi il suo faccino, fui pervasa da un sopore profondo. Era una bambina e assomigliava più a me che a Filippo. I suoi occhi mi guardarono con saggezza fin dal primo momento. Ebbi il presentimento che più che una figlia avevo dato alla luce un essere che avrebbe vegliato su di me. Più tardi pensai molte volte che il senso di colpa di Filippo avesse animato lo spirito di questa bambina perché fosse la mia compagnia e la mia consolazione. Il suo amore mi sostenne per tanti lunghi anni. Dare la vita a Caterina, dopo essere stata tanto a contatto con la morte, fu uno sforzo che consumò le mie energie e mi lasciò fragile nel corpo e nella mente. La nascita di mia figlia, il 14 del gennaio del 1507, diede inizio al primo anno di vedovanza, segnato da lunghe notti di veglia. Avevo paura ad addormentarmi. Filippo mi appariva in sogno e mi chiedeva di andare con lui perché era molto solo e aveva molto freddo. Le sue preghiere erano tanto appassionate che finivo per battere i denti, contagiata dal gelo della sua bara di piombo. In 7 mesi sperperai una gran parte del mio scarso tesoro per la cera delle candele che ardevano attorno a lui. Pagai i servizi funebri che venivano officiati tutte le sere e corrisposi il salario ai cantori fiamminghi, pensando che le loro melodie avrebbero mitigato il rimpianto del mio sposo per essere morto lontano da Bruxelles. Ero convinta che Filippo non fosse ancora riuscito a superare la soglia dell'altra vita. Sarebbe morto definitivamente solo quando fosse stato accanto a mia madre. Quando lei lo avesse obbligato a calarsi nel marmo del suo catafalco a Granada. Era inutile spiegarlo ad altri. Sì, lo ammetto, la morte di Filippo mi sedusse con la stessa ottusa passione con cui mi aveva sedotto la sua vita. La certezza che vivesse una misteriosa esistenza che sfiorava la mia, mi spinse a cercare di tenerlo lontano dalle altre donne. Mi rifiutai persino di pernottare nei conventi, temendo che lui, protetto dall'incorporeità, passeggiasse di notte di cella in cella, accarezzando le impudiche fantasie delle monache, infilandosi tra le loro vesti sporche. Altre volte lo immaginavo capace di insediarsi nei corpi dei soldati per solazzarsi con quelle donne represse. Mi rifiutai di accettare una fine semplice per il mio Filippo, forse perché in fondo al mio lutto sentivo il piacere di essermi liberata dei suoi crudeli intrighi e delle sue ambizioni, e temevo che lui, scoprendo quell'oscuro segreto del mio cuore, si vendicasse. Nobili e sacerdoti mi assediavano quotidianamente tentando di disorientarmi e di spingermi a tradire questo o quello. Cisneros trasferì il suo esercito a Torquemada con la scusa di proteggermi. Per liberarmi dalla sua deleteria intromissione e dalle sue spie, ripresi le mie peregrinazioni verso Granada. Ma prima riconfermai gli ordini di revoca dei favori concessi da Filippo e insistetti con i rappresentanti delle Cortes, con cui sostenni un'udienza perché governassero come quando era in vita mia madre. Bastava che io mostrassi raziocinio e autorità perché si diffondesse lo sconcerto tra i prelati. E i nobili, da una parte, si lamentavano della mia presunta pazzia, ma dall'altra niente li spaventava di più dell'evidenza della mia assennatezza e dell'eventualità che decidessi di esercitare i miei diritti di regina. A poco constatavo che la realtà mi era estremamente avversa, che io regnassi non rientrava nei calcoli di nessuno. Per loro ciò che era in gioco era chi avrebbe governato per me e che io avrei legittimato questo fine. Sola, senza eserciti, senza denaro, mi trovavo in una posizione precaria. Mi resi conto che la mia unica via di uscita era ancora quella di allearmi con mio padre ed impostare assieme a lui una maniera di governare simile a quella che aveva condiviso con mia madre. Sapevo che era partito da Napoli alla volta della Spagna. Non volevo che si pensasse che ero io a chiedergli di venire, per cui presi dei pretesti per non firmare una lettera che Messer Luis Ferrer, suo emissario, insisteva che gli inviassi, richiedendo la sua presenza. Non potei però sottrarmi alla sua sollecitazione di ordinare che si facessero nel paese processioni propiziatorie per il buon esito del suo viaggio. Alla fine non riuscii a evitare di apparire agli occhi di tutti come sostenitrice del suo arrivo. Il nostro incontro ebbe luogo a Tortoles il 29 agosto. Partii da Hornillos, un villaggio in cui avevo soggiornato per 4 mesi dopo aver lasciato Torquemada, e dove il mio seguito aveva causato danni considerevoli per i quali avevo poi dovuto indennizzare gli abitanti. Persino la chiesa era stata rovinata dal fuoco delle candele che ardevano davanti al feretro di Filippo. Per poco il suo stesso cadavere non finì incenerito a causa della disattenzione di coloro che dovevano vegliarlo. Situata nella provincia di Burgos, Tortoles era per le sue dimensioni una località più adatta a ricevere il re di Aragona. Lui non era di quelli che si accontentavano, come me, di un posto qualsiasi. Non ci vedevamo da più di 4 anni. Confesso che al momento di incontrarlo fui presa più che dal sentimento filiale, dalla facilità con cui i nobili, che fino a pochi giorni prima dichiaravano di stare dalla mia parte, passarono al suo seguito. Alla fine dovetti presentarmi a lui, attorniato unicamente dalle poche dame che erano rimaste al mio servizio. Che possibilità avevo se non quella di riconoscere il mio svantaggio? Avrei voluto essere solenne e impassibile davanti a lui perché capisse che anche se ero sua figlia, ero anche regina e sua uguale. Ma quanto ero stolta. Dimenticavo la singolare abilità di mio padre di alleviarmi il dolore solo con uno sguardo. Mi avvicinai a lui e sollevai il velo nero da vedova. Non appena i nostri occhi si incontrarono, feci un inchino e mi baciò la mano, e questo gesto mi sembrò un'incongruenza. Piegai le gambe e caddi in ginocchio davanti a lui. Lo abbracciai, presa da una profonda sensazione di amore e di quiete. In quel momento, mentre mi stringeva tra le braccia, mise fine alle mie contraddizioni. Chiusi gli occhi. Mi venne in mente la frase del Padre nostro: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Che si facesse la volontà di mio padre, finalmente avrei potuto riposare. Con l'intesa che io avrei continuato a essere la regina e avrei avuto l'ultima parola, gli concessi la reggenza e il governo del regno. Rimasi per un breve periodo a Santa Maria del Campo, quindi decisi di stabilirmi ad Arcos, a 2 leghe di distanza da Burgos, dove mio padre avrebbe voluto che mi trasferissi. Io però non volevo ritornare nella città in cui era morto Filippo. Il palazzo episcopale di Arcos, dove fissai la mia residenza, era un edificio di pietra bello e semplice che aveva il chiostro in comune con la chiesa parrocchiale. Quindi, senza passare dalla strada, io potevo vedere la navata principale del tempio e vegliare sul feretro di Filippo. Nelle vicinanze c'erano altri 3 palazzi, sufficienti ad alloggiare il piccolo seguito che si occupava di Caterina, di Ferdinando e di me. Il piccolo Ferdinando, mio figlio, era ritornato a vivere con me dopo la morte del padre. Arrivò da Simancas accompagnato dal buon Pedro Núñez de Guzmán, che si occupava della sua educazione. Mi intenerì immensamente la chiarezza con cui mi ricordava, nonostante il tempo trascorso. A soli 4 anni non solo mi riconobbe come sua madre, ma si attaccò a me con una sete di carezze che mi faceva sentire necessaria e amata. Quando allattavo Caterina, voleva che allattassi anche lui e lo avrei fatto molto volentieri, ma il dolore e la stanchezza di quei mesi si ripercuotevano sul poco latte che sgorgava dal mio petto. Niente mi rendeva più felice in quei giorni che sentire l'accuratezza della pronuncia di Ferdinando, rara in un bambino della sua età. Parlava con una sorprendente scioltezza e adorava che gli leggessi le gesta del Cid Campeador. La notte nel letto, assieme a Caterina e a Ferdinando, non ero tormentata da nessun brutto sogno. Io, che non ero mai stata propensa a giocare con i miei figli o a dedicarmi a loro, trovai nell'innocenza e nell'amore spontaneo e grato di Ferdinando e nel corpicino caldo di Caterina uno spazio sicuro dove amare ed essere amata, un'ancora di salvezza. Mi ripromisi di diventare una vera madre per loro e di non allontanarli mai più da me. Trascorsi 18 mesi ad Arcos, placando le mie pene. Sentivo che cominciavo a uscire da una valle di nebbia e sassi. Da lì avrei raggiunto il crocevia in cui Filippo si sarebbe perso nel cammino della morte, mentre io sarei ritornata a quello della vita. Anche se non l'avevo presa seriamente, mi lusingò la diceria che il re d'Inghilterra, Enrico VII, lo stesso che era venuto vari anni prima a guardarmi di nascosto a Portsmouth, avesse chiesto la mia mano. Ridevo con le dame e sentivo che riviveva in me lo spirito della ragazza forte, audace, avida di musica, balli e bellezza che ero stata un tempo. Ma dopo l'inverno del 1508, mentre l'estate si annunciava con giornate calde e io sognavo di passeggiare nella campagna castigliana, la mia serenità andò in frantumi. Mio padre decise di partire per Cordoba per punire i nobili andalusi che rifiutavano ancora di accettare la sua autorità e di portare con sé il piccolo Ferdinando. Temeva che durante la sua assenza la nobiltà congiurasse per privare del trono Carlo, che si trovava ancora nelle Fiandre, a favore di Ferdinando, considerato da tutti più spagnolo del fratello. Più che difendere i diritti di Carlo, mio padre voleva assicurarsi che non si usasse il nipote per estromettere lui dalla reggenza di Castiglia, cosa che i nobili avevano già tentato di fare poco dopo la morte di Filippo. Io non volevo separarmi da mio figlio, respingevo l'idea che crescesse sentendosi una pedina negli intrighi per il potere, ma non mi valse a nulla pregare prima e gridare poi, fare appello alla gerarchia, chiudermi con il bambino nella mia stanza come qualsiasi femmina che difende la propria prole. Me lo strapparono dalle braccia con la forza, senza curarsi né delle grida del bambino né delle mie. Il drappello lasciò Arcos e io mi chiusi, desolata e piena di amarezza, nella mia stanza. Ancora una volta mi rifiutai di mangiare e di lavarmi. Ancora una volta feci ricorso alla mia unica risorsa, quella del mio corpo. Questo scriveva il vescovo di Malaga a mio padre Ferdinando il Cattolico. Dopo la partenza di Vostra Altezza, la regina è stata calma, sia in parole che in opere. Non ha ferito nessuno né pronunciato parole ingiuriose. Mi permetta di dirle che da quel momento non ha più cambiato abito né velo e non si è più lavata il viso. Dorme per terra e mangia con i piatti sul pavimento senza tovaglia e molte volte non assiste alla messa. Quando mio padre ritornò dall'Andalusia, ordinò di portarmi via d'Arcos. Con un vero e proprio colpo di stato mi portarono con la forza al palazzo di Tordesillas. Mio padre aveva scritto con pazienza, lusinga, ma anche con minacce. Mio padre controllò di persona il trasferimento mio di Caterina e del cadavere di Filippo.